mi ero reso conto che solo la percezione grossolana ed erronea mette tutto nell'oggetto, mentre tutto è nella mente. Avevo perduto realmente la nonna, parecchi mesi dopo averla perduta di fatto. Avevo visto l'aspetto delle persone variare a seconda dell'idea che io o altri ci facevamo di loro. Una sola persona, essere più persone, a seconda di chi la vedeva. Vari Swan dell'inizio, per esempio, principessa di Luxembourg, per il primo presidente, o anche per uno solo nel corso degli anni, nome German, vari Swan per me. Avevo visto l'amore mettere in una persona ciò che è solo della persona che ama. Me ne ero reso conto ancora meglio quando mi si era dilatata all'estremo la distanza fra la realtà oggettiva e l'amore. Rachel per Saint-Luc e per me. Albertine per me e per Saint-Luc. Morel o il conducente d'omnibus per Charlus o altri. Eppure tenerezze di Charlus, versi di Musset, eccetera. Infine, in una certa misura, la germanofilia del signor di Charlus, come lo sguardo di Saint-Luc sulla fotografia di Albertine, m'aveva aiutato a liberarmi, per un istante, se non della mia germanofobia, quantomeno della mia fede nella sua pura oggettività, e a farmi pensare che per l'odio, forse, accadeva come per l'amore, e che nel giudizio tremendo che la Francia dava in quel momento della Germania, giudicata fuori dell'umanità, c'era soprattutto un'oggettivazione di sentimenti simili a quelli che facevano apparire Rachel e Albertine, una a Saint-Luc, l'altra a me, così preziose. A rendere possibile che tanta perversità non fosse del tutto intrinseca alla Germania, c'era, in vero, il fatto che come individualmente avevo vissuto amori successivi, alla cui fine l'oggetto di ciascuno di essi m'appariva privo di valore. Così avevo già visto nel mio paese odi successivi che avevano fatto apparire, per esempio, come traditori, mille volte peggiori dei tedeschi cui essi consegnavano la Francia, Dreyfusisti come Reinach, con cui oggi i patrioti collaboravano contro un paese di cui ciascun membro era per forza un mentitore, una belva, un imbecille, fatta eccezione per i tedeschi, che avevano abbracciato la causa francese come il re di Romania, il re del Belgio o l'imperatrice di Russia. È vero che gli anti-Dreyfusisti mi avrebbero risposto «non è la stessa cosa». Ma in effetti non è mai la stessa cosa, proprio come non è mai la stessa persona. Altrimenti, di fronte allo stesso fenomeno, la vittima dell'inganno non potrebbe accusare che il proprio stato soggettivo e non potrebbe credere che qualità o difetti siano nell'oggetto. L'intelligenza non fa certo fatica, allora, a basare su questa differenza una teoria, insegnamento contro natura dei religiosi secondo i radicali, incapacità della razza ebrea di farsi nazione, odio perpetuo della razza germanica contro la razza latina, la razza gialla essendo momentaneamente riabilitata. Questo aspetto soggettivo risaltava d'altronde nelle conversazioni con i neutrali, durante le quali i germanofili, per esempio, possedevano la facoltà di sospendere provvisoriamente la comprensione e persino l'ascolto quando si parlava loro delle atrocità tedesche in Belgio. Eppure, esse erano reali. Quanto notavo di soggettivo nell'odio, come nella stessa vista, non impediva che l'oggetto potesse avere qualità o difetti reali. E non faceva affatto svanire la realtà in un puro relativismo. E se, dopo tanti anni trascorsi e tanto tempo perduto, avvertivo questo influsso capitale dell'atto interiore persino nei rapporti internazionali, non ne avevo forse avuto il sospetto già all'inizio della mia vita? Quando, nel giardino di Combray, leggevo uno di quei romanzi di Bergotte, sfogliando le cui pagine dimenticate e in esse imbattendomi nei raggiri d'un malvagio, persino oggi non mi metto tranquillo se non dopo essermi assicurato, 100 pagine più in là, che quel medesimo malvagio è stato debitamente umiliato e vive abbastanza a lungo per constatare che i suoi tenebrosi progetti sono stati sventati. Infatti non ricordavo più con esattezza cosa fosse successo a quei personaggi, il che, del resto, non li differenziava dalle persone che si trovavano quel pomeriggio da Madame de Germain e la cui vita passata era ai miei occhi, almeno per parecchi di loro, non meno vaga che se l'avessi letta in un romanzo mezzo dimenticato. Il principe d'Agrigento aveva finito con lo sposare Mademoiselle X? O era invece il fratello di Mademoiselle X che doveva sposare la sorella del principe d'Agrigento? O, ancora, ero io a far confusione con una vecchia lettura o con un sogno recente? Il sogno era, tra i fatti della mia vita, un altro di quelli che m'avevano sempre colpito di più, che più erano valsi a convincermi del carattere puramente mentale della realtà, e di cui non avrei disdegnato l'aiuto nella composizione della mia opera. Quando vivevo in modo un po' meno disinteressato per un amore, ecco che un sogno, attraverso grandi distese di tempo perduto, mi avvicinava singolarmente la nonna, Albertine, che avevo ricominciato ad amare perché, mentre dormivo, mi aveva fornito una versione, d'altronde attenuata, della storia della lavandaia. Pensai che allo stesso modo essi mi avrebbero avvicinato qualche volta delle verità, delle impressioni che né i miei soli sforzi, né gli stessi incontri della natura mi presentavano, che avrebbero risvegliato in me desiderio, rimpianto di certe cose inesistenti, che è la condizione per lavorare, per astrarsi dall'abitudine, per staccarsi dal concreto. Non avrei disdegnato questa seconda musa, questa musa notturna, che avrebbe fatto, di tanto in tanto, le veci dell'altra. Avevo visto i nobili diventare volgari quando il loro spirito, per esempio quello del duca di Germain, era volgare. «Non fate cerimonie, voi», avrebbe potuto dirlo Cottard. Nell'affare Dreyfus, durante la guerra, in medicina, avevo visto credere che la verità fosse un determinato fatto, che i ministri, il medico, fossero in possesso d'un sì o d'un no, che non ha bisogno di interpretazione e in virtù del quale una radiografia indica senza interpretazione cos'ha il malato, che la gente al potere sapesse se Dreyfus era colpevole, sapesse, senza bisogno per questo di mandare Rock a investigare in loco, se Sarai aveva o no i mezzi per muoversi contemporaneamente ai russi. Non c'è stata un'ora della mia vita che non mi sia servita per capire che solo la percezione più grossolana ed erronea pone tutto nell'oggetto, mentre tutto è, al contrario, nella mente.